Antonizia, di questi che l'umanità intera ne ci effetto, messaggio. Non era una dichiarazione d'amore. Non era neanche la bolletta della luce. Era molto peggio. Appena sono di buon umore, un pomeriggio di questi, io e te dobbiamo parlare. Non era neanche la bolletta della luce, era molto peggio. Sono di buon umore, un pomeriggio di questi, io e te dobbiamo parlare. Mi sveglio alle 3, l'alito sa di morte, e sul telefono minaccia di corte. Lei non ha scritto amore, non ha scritto ciao, ha scritto quella frase, dobbiamo parlare, ma con il tono da esame, color rettale. Appena sono di buon umore, parlare. E se non ti sta bene, parla col mio cactus da compagnia. Dobbiamo parlare. Parlarla mi sto cazzo. Dobbiamo parlare. Ma chi ti interroga dopo? Parla quando c'hai il ciclo. Così almeno si non so chi sei tu. E non l'inquisizione. Spoglio per fare pace, lei si veste per litigare. Io le parlo d'amore, lei cita Dostoevsky. E poi mi chiede chi è sta Eva, che ha messo like alla mia lasagna. E così la conversazione iniziò. Durò 6 ore, 26 recriminazioni, 2 minacce di divorzio e un petto nervoso. Dobbiamo parlare.